La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, questa è La Rosa Purpurea, il nostro appuntamento settimanale con il cinema. In una settimana che vede finalmente, ma è già successo durante questo periodo, al cinema un film italiano come film di punta della programmazione, ovvero lo chiamavano Gigrobò. Se ne è parlato tanto, ne parleremo molto anche noi, ascolteremo Claudio Santamaria, il regista e produttore Gabriele Mainetti, recensiremo questo film che merita davvero molto, sarà un po', dicevo, il centro della nostra trasmissione. Ma sono molti e molti altri film importanti che arrivano nelle nostre sale, come per esempio Il Club, lo dico così proprio con la U perché è un film sudamericano firmato Pablo Larraín, uno straordinario capolavoro di cui parleremo. Ma cominciamo invece con un film anomalo, lo si evince già dal titolo, che è Anomalisa, il film diretto da Charlie Kaufman, con le animazioni di Jennifer Jason Leigh, David Tewils, Tom Noonan, le animazioni nel senso che i personaggi veri sono poi ritrattati al computer facendoli diventare dei personaggi animati per raccontare una storia estremamente seria che noi ci facciamo raccontare da Chiara Pizzimenti. Che vuol dire essere umani? Che vuol dire soffrire? Che vuol dire sentirsi vivi? Per ogni persona a cui parlate è un giorno diverso. Per alcuni quello è un buon giorno, per altri no. Ogni persona a cui parlate ha avuto un'infanzia. Tutti hanno un corpo e ogni corpo ha sofferto. Questo è Michael Stone, marito, padre e autore del libro Come posso aiutarvi ad aiutarli, un bestseller per chi lavora nel mondo del servizio clienti. Quest'uomo ha una vita che trova ordinaria e monotona. Una conferenza a Cincinnati gli dà la possibilità di scoprire una forma di diversità, un'anomalia o un'anomalisa, se vogliamo usare il titolo del film. Sì, perché la persona diversa, o meglio quella che finalmente lui riesce a vedere e sentire come diversa, è Lisa, venuta ad assistere alla conferenza. Ricordate che per ogni persona esiste un'anima gemella. Tu sei straordinaria. Perché? Ancora non lo so, ma sono sicurissimo che sia così. Si liberi il campo subito da qualsiasi dubbio sul pubblico di questo film. Non è per bambini, ma decisamente per adulti, nel contenuto come nella forma. È una pellicola fatta in animazione, con la stop motion, ma i pupazzi sono in qualche modo incompiuti. Se ne vedono le giunture, come fossero maschere. Il fatto che l'hotel in cui alloggia l'uomo si chiami Fregoli poi riporta al famoso illusionista e alla sindrome che da lui prende il nome, per cui una persona pensa di essere sempre perseguitata dallo stesso individuo che si sostituisce agli altri. Qui il protagonista sente tutti parlare con la stessa voce, tranne Lisa. Idea, sceneggiatura e regia sono di Charlie Kaufman, l'uomo che sta dietro a essere John Malkovich e Se mi lasci ti cancello. Come sempre nel suo lavoro brilla per originalità, qui anche nella scelta tecnica e per complessità. La vita, ci dice, è tragedia monotona, con momenti di ironia. Lo spettatore lo comprende, ma un po' anche lo subisce. Io sono attonita e perplessa, però è il primo film di questo genere che vedo. È un film particolare sull'esistenza cerebrale e anche profondo. Vuole essere presentato come un film di animazione, ma è per adulti e con un grande senso. Sembra che l'idea non sia particolarmente originale, nel senso che è già stata esplorata in passato, però c'è qualcosa di interessante, di realistico. A me è piaciuto molto, un film molto originale, che è molto diverso da quelli che si vedono di solito. L'idea ci sta, nel fatto che le voci siano tutte uguali, perché per il personaggio la vita è molto monotona, però dopo un po' è pesante. Cioè, io ho guardato l'orologio più volte. E questo era Anomalisa di Charlie Kaufman, ce l'ha raccontato Chiara Pizzimenti, la prima delle novità al cinema che vi abbiamo raccontato appunto qui alla Rosa Purpurea. Fra poco andremo dalle parti di Fabio De Luigi con il suo Tiramisù. Prima però diamo un'occhiata a quella che è la classifica della scorsa settimana, perché tra il 15 e il 21 febbraio abbiamo assistito all'assoluta esplosione di Perfetti Sconosciuti. Perfetti Sconosciuti, il film di Paolo Genovese, l'avete presente, che racconta appunto questa cena tra amici nella quale ci si decide di scambiare i telefonini e di non avere più segreti, almeno per quella sera, e ne succederanno delle belle. Ebbene, Perfetti Sconosciuti, anche e soprattutto grazie al passaparola, sta davvero lievitando. È arrivato a più di 700.000 spettatori, a 4 milioni e 400.000 euro di incasso. Questo al tutto la scorsa domenica. Ancora mancano i dati di questa settimana, nella quale è andato ancora molto bene. Lo dico perché nella classifica di questo anno solare, Quo Vado ha raggiunto i suoi 65 milioni, insomma, ha fatto il record dei record con quasi 10 milioni di presenze al cinema. Però al quarto posto troviamo già Perfetti Sconosciuti, che potrebbe attaccare, anzi attaccherà e probabilmente supererà il terzo posto del Piccolo Principe, potrebbe addirittura avvicinarsi al secondo di Revenant nella classifica stagionale. Ci troviamo nella top 10, anche l'abbiamo fatta grossa, di Verdone. E per cui per la commedia italiana, al di là di Quo Vado, al di là di Zalone, è una stagione davvero importante. E allora adesso vediamo se in questo novero riuscirà a inserirsi anche il Tiramisù di Fabio De Luigi, del quale parleremo dopo la viabilità. Recupera, ha vinto, straordinaria impresa di Mennea. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, è finito, campioni del mondo. L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Sono Dario Ricci, vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti. Ogni domenica alle 20:30, qui su Radio 24. La rosa purpurea. Per fortuna hai trovato mia sorella. Tiramisù fantastico. Repitoso. Un tiramisù lo fa mia moglie, molto molto buono. Ti sto chiedendo soltanto di tradire mia sorella. Stai scherzando? No. È un fuori classe. Lo chiamano il Messi delle supposte. Dovevano un po' di champagne, per favore. Oggi pomeriggio devi andare dal presidente nella sua casa in montagna. Una bella battuta di caccia della mia proprietaria, va? E può un tiramisù cambiare la vita di una persona? Beh, insomma, quando è fatto bene il tiramisù rimane il dolce forse più buono del mondo, ma detto questo, all'attore, anzi Antonio Moscati, interpretato dall'attore Fabio De Luigi, che è anche regista di questo tiramisù, le cose vanno proprio così. Lui è uno che cerca di vendere farmaci come piazzista, la vita non gli va particolarmente bene, la moglie, almeno lui pensa che la moglie lo consideri un mezzo fallito. Insomma, è un uomo in cerca di se stesso, quando un giorno, appunto, Antonio dimentica in uno studio medico un tiramisù fatto proprio dalla moglie Aurora e che lui avrebbe dovuto portare alla Caritas. Il medico lo assaggia e la vita di Antonio cambia. Boris Sollazzo, in collegamento con noi, meglio il tiramisù o meglio il film di De Luigi? Meglio il tiramisù. E un po' mi dispiace, perché io ho una grandissima stima di Fabio De Luigi, che trovo essere stato uno dei comici più originali della televisione italiana. Ricordo un Happy Family in cui lui diventava per molti momenti del film una sorta di Peter Sellers italiano, ed è un attore che secondo me sa dare molto quando condotto da un bravo regista, con un regista con un'idea forte. E qui il regista con l'idea forte non c'è, perché è lui, lo dico senza ironia, nel senso che è evidente come lo scotto dell'esordio sia abbastanza pesante, perché si ancora, probabilmente per non perdere certezze, all'immaginario visivo, che per lui è più comune, che è quello televisivo, e si porta avanti questa che è una commedia in parte romantica e molto molto molto in parte antropologica sociale, su questo uomo che si sente un uomo senza qualità e si sente percepito come tale, con attori che non hanno straordinario carisma, perché Vittoria Puccini è la fotografia della bellezza, ma non è sostanzialmente un carattere travolgente al cinema. E la storia, la sceneggiatura è una sceneggiatura sì delicata e anche graziosa, ma Il problema è proprio quello, che tu hai sempre l'impressione che tirami su il dolce, il momento buono, la ciliegina sulla torta, anche se è uno dei pochi dolci su cui non va la ciliegina, debba arrivare da un momento all'altro, e invece ci si rifugia sempre in alcune scenette che sembrano un po' prese da quella sitcom divertente che lui ha fatto, che era Love Bugs. Sembrano le cose più riuscite sembrano delle piccole pillole, quelle meno riuscite sembrano appunto i rifugi televisivi di cui parlavamo. Non si può dire che sia un film da stroncare tu court, tiramisù, però è uno di quei film che, come un tiramisù medio, ti dimentichi poco dopo averlo mangiato. In questo caso te lo dimentichi poco dopo certo, averlo visto. Certo, tra l'altro hai usato una parola, adesso un aggettivo, medio, Boris, che secondo me è proprio il problema di questo film. Cioè, abbiamo proprio parlato poco fa di come la commedia italiana stia invadendo la top 10 degli incassi, soprattutto dal primo gennaio in poi, con Checco Zalone 65 milioni, ma con Perfetti Sconosciuti che potrebbe attaccare il terzo, forse addirittura il secondo posto, quello di Revenant, con Verdone che è lì in quarta, quinta posizione. Perché? Perché il primo è un film che punta tutto sulla comicità spinta, accesa, forte di Checco Zalone. Gli altri puntano tutto su uno sulla recitazione albanese Verdone, l'altro sulla situazione, sulla capacità di scrittura di Paolo Genovese. Sì, è una straordinaria sceneggiatura. Ecco, detto, qui mi sembra proprio che ci sia quella commedia media che forse il pubblico italiano, adesso vedremo come andrà, comincia un po' a cercare delle altre cose, no? Sono assolutamente d'accordo. Mi viene la battuta che, insomma, uno dei personaggi più riusciti di De Luigi era Medioman, che era una parodia di un concorrente del Grande Fratello con la Jalapas. E l'impressione è che quella cosa che gli riesce molto bene da attore con altri cineasti che hanno appunto un'idea forte, qui invece diventi appunto quello che abbiamo detto prima, veramente un rifugio per non rischiare. E come dici tu, mentre per tanti anni la commedia ha cercato la medietà e forse anche lo spettatore, adesso lo spettatore vuole essere stupito. Il successo di Perfetti Sconosciuti, secondo me, in questo senso è illuminante, perché Perfetti Sconosciuti è una commedia con dei momenti in cui ridi molto, ma è anche una commedia molto angosciante, molto amara, una commedia, insomma, che è una commedia dove lo spettatore è dentro, e invece questo sì. Ho la sensazione che è un film dove lo spettatore resta fuori, e c'è esatto. Questo tipo di rapporto, diciamo. Allora, Boris, abbiamo detto di tiramisù, adesso giochiamo insieme con la prima traccia del film misterioso di oggi. Più dati, più analisi, meno probabilità di attacchi terroristici. Signore e signori, è ora che i servizi segreti del mondo si uniscano. E allora, servizi segreti, terrorismo, avete già capito che siamo in clima spy story. Diteci di che film si tratta, titolo per esteso, vostro indirizzo per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana, ma di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. Andiamo avanti con il cinema, le novità in sala, andiamo avanti con un film veramente straordinario. Chi ci segue da tanto sa che usiamo raramente la parola capolavoro, e in questo caso la usiamo perché Il Club di Pablo Larraín è un film davvero di una grandissima intensità, cifra stilistica, registica, recitazione, c'è dentro davvero tutto. Ascoltiamo la clip. Ho chiesto a padre Garcia di venire con me. È un uomo molto preparato. È molto affascinante. Padre, noi conduciamo una bella vita qui. Questo è un centro di preghiera e penitenza. Dobbiamo chiudere questa casa. No, qui non c'è Dio, padre. Se lei ci manda via da questa casa, chiamerò i giornalisti e gli racconterò tutto quanto. Una casa in fondo al Cile, che è già un paese in fondo al mondo, sulla costa, dove vivono una suora, quattro preti sconsacrati perché hanno compiuto abusi sessuali, soprattutto sui bambini. E sono messi lì, in questa casa della chiesa, a pregare, a fare penitenza, a provare a ritrovare una propria personale verginità. Ma in quel mentre, in quel posto, in quel luogo, una delle vecchie vittime torna a farsi vedere sul filo della pazzia, spesso superato, e a far riemergere nei preti i fantasmi del passato. Pablo Larraín firma un film, come dicevo prima, di straordinaria intensità, con un cast di una profondità e anche di un'amalgama davvero riuscitissimi. Roberto Farias, Alfredo Castro, l'ormai immancabile Alfredo Castro, uno dei più grandi attori del mondo, in questa fase anche dei più ricercati dal cinema internazionale, con una regia rarefatta che appunto non ha paura di giocare con la follia, che è la cifra di questo film. Scherzando in settimana, chiacchierando con colleghi, si diceva che potrebbe essere quasi il sequel d'autore del caso Spotlight, del film americano uscito la scorsa settimana, che racconta invece con incedere tutto cronistico, tutto assolutamente particolareggiato, la vicenda dei preti pedofili di Boston e dell'inchiesta che li scoprì e li smantellò. Ebbene, questo potrebbe essere il sequel, cioè dove vanno a finire poi quei preti? Cosa fanno e dove lo fanno? Con la cifra e la mano di Pablo Larraín, Boris, che sta diventando veramente una delle certezze del cinema mondiale. Ma a me verrebbe da dire, fare il critico, insomma, forse anche prendersi dei rischi, che in questo momento è il miglior regista del mondo. Nella contemporaneità non c'è nessuno come lui che non abbia mai sbagliato un film, sostanzialmente, e che ogni volta che racconta qualcosa, come forse solo Kubrick ha fatto, il mondo del cinema si ferma, lo guarda, ci riflette e si sente colpito e cambia un po'. Io ci vedo tantissimo in Larraín. Secondo me, appunto, fra 30-40 anni lui sarà uno dei più grandi della storia del cinema. C'è Rossi, c'è Petri, c'è Buñuel, c'è la capacità di andare a vedere un paese, di smembrarlo psicologicamente e di raccontarci con metafore, ma anche con storie pesantissime, quello che quel suo paese rappresenta, perché poi il Cile è veramente un prisma in cui si può guardare le contraddizioni del mondo, come il fascismo ha devastato la coscienza collettiva di un paese, come la Chiesa nelle sue perversioni ha devastato l'animo di quel paese, come questo ha costruito una società con dei traumi incredibili, e sostanzialmente è uno specchio quel Cile, che è un paese relativamente piccolo rispetto al mondo, ma che riesce ad avere in sé, purtroppo per lui, nella sua storia recente, quasi tutto l'orrore che abbiamo vissuto negli ultimi anni, penso anche a Desaparecidos. Se lui l'ha raccontato tutto, lui ha avuto il coraggio di raccontarlo tutto, l'unico momento di respiro che si è concesso è stato no, nel senso che pur raccontandoci anche là l'orrore, ci ha raccontato forse l'unico momento di speranza. Come Rossi e Petri, non l'ho citato a caso, poi ha una sorta di alter ego pazzesco, che è questo Alfredo Castro, che davvero è argilla meravigliosa nelle sue mani, un attore straordinario, anche lui uno tra i migliori attori del mondo, che incarna tutto ciò che c'è di più oscuro nel mondo e anche nella mente, nell'immaginario di Larraín, e lo fa a suo modo con un'innocenza. Tu hai usato la parola verginità, che vicino ad abusi pedofili fa quasi paura, ed è invece secondo me un ossimoro straordinario che racconta benissimo la recensione di questo film. Il Club è un film straordinario per tanti versi, anche per motivi produttivi, se si pensa al fatto che il peso della Chiesa in Cile è fortissimo, eppure questo è un film che è stato finanziato dallo Stato cileno. Questo ci dovrebbe far molto riflettere anche su quello che succede magari da noi, sulle polemiche che succedono da noi su certi film, su certe opere d'arte con certi contenuti. Il film è incredibile, perché questo trauma dei preti pedofili ha condizionato il mondo e ha condizionato anche il cinema. Ricordiamo i film inglesi, in proposito, in cui la rabbia prevaleva su tutto il resto, ma se vogliamo anche la parte di Almodovar. Che la Rai non ha paura di entrare in quella casa in fondo al mondo, in quella casa in fondo all'anima, poi in quella casa piena di poteri oscuri, che a un certo punto viene risvegliata, e in cui tu capisci che quegli uomini, che sembrano in fondo normali, hanno fatto quello che hanno fatto per l'avarizia che hanno dentro, per l'aridità che hanno dentro, l'avarizia sentimentale, emotiva, per l'aridità che hanno dentro. È veramente la banalità del male che emerge attraverso una regia incredibile, una sceneggiatura pazzesca, che andrebbe letta nelle nelle scuole di cinema grandi attori. Veramente in questo caso addirittura dire capolavoro rischia di essere riduttivo. E allora, questo è l'assoluta, diciamo, promozione de Il Club di Pablo Larraín. Purtroppo, fatemi dire, al momento solo in una decina di sale in tutta Italia. E allora, spettatori, amici che ci ascoltate, fatevi sentire, andate al cinema. Se siete in Emilia Romagna, in Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Umbria, cioè Milano, Roma, Bologna, Torino, eccetera, siete fortunati, un cinema lo trovate. Se siete negli altri posti, come si faceva una volta, chiedete al vostro esercente di avere questo film che va assolutamente visto al cinema. Adesso linea alla regia, torniamo fra poco perché ci toccherà parlare finalmente di Lo chiamavano Gigrobò. Sauna da Cirra a Cocoruno, basteranno 1.000 romani, vanno pure a Cirra. Un problema, non so quello. Hanno svuotato dappertutto, rotto tutto, cioè perciò tu non riconosci più casa tua, avevi lo schifo delle tue stesse cose. Che lo vogliamo o no, le storiacce sono intorno a noi. Possono essere negli abusi del vicino di casa, nelle prepotenze dei mafiosi, negli imbrogli di chi ostacola i nostri progetti, di chi ruba i nostri risparmi e rovina le nostre giornate. Ma perché? Se siete stufi, questo è lo spazio per voi. Un po' telefono amico, un po' sportello delle denunce. Sono Raffaella Calandra. Scrivetemi a storiacce@radio24.it per segnalare anche il vostro caso. Noi le storiacce le rendiamo pure mitiche. Scoprite come ogni sabato alle 21.30 su Radio 24. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, La Rosa Purpurea, terza parte, il momento di parlare di Lo chiamavano Gigrobò, un film che si è fatto veramente tanto attendere, tanto annunciare, se ne parla da molto di questa esperimento tutto italiano di fare un superhero movie, un film di supereroi, ma che, come vedrete, ha tanti tanti altri aspetti rivoli da guardare e da capire. Andiamo ad ascoltare la clip. Tu conosci Gigrobò d'acciaio? Chi? Ma che pure te c'ha la spada là? La spada chi? Ma te sei il supereroe, ma mica quella rubà. C'è un sacco di gente da salvare. La verità io ho sta gente. È per questo che c'hai poteri. Ma che è colpa mia se sto Superman si è messo a mezzo? Io solo una cosa voglio sapere. Ma tu chi cazzo sei? Cioè, però amore mio, quando ti trasformi ti devi cambiare ste scarpe. C'è un supereroe che scarpe di camoscio non si è mai visto, dai. E allora la storia di Enzo Ceccotti, un rapinatore da quattro soldi della borgata romana, uno che vive di piccoli furtarelli, scippi, eccetera, e spera di non farsi prendere dalla polizia. Inseguito dalla polizia, lo troviamo all'inizio del film, si butta nel Tevere e finisce dentro un barile, che era lì, chissà perché, di materiale radioattivo. Ne esce mezzo morto, ma la mattina dopo ha dei poteri davvero straordinari. Cioè, guarisce alla svelta, ha una forza sovrumana. Infatti la usa subito all'inizio per sradicare dei bancomat dalle loro posizioni. Cioè, per continuare a fare il suo lavoro, quello che ha sempre fatto, senza capire l'effettivo potenziale. Per capirlo ci vorrà l'ingresso nella sua vita di una ragazza che si chiama Alessia. È una ragazza che ha bisogno di grande aiuto in quel momento e che pensa di vivere dentro il cartone animato di Gigrobò d'acciaio. Pensa che quelli che vede sono i personaggi, pensa che il male che vede nella sua vita sia dovuto al Signore del Fuoco o ad altri personaggi della mitica serie giapponese. Forse Enzo Ceccotti cercherà di tirarla fuori dalla sua situazione, forse sarà lui a finire dentro quel mondo e a credere davvero che a un certo punto serve Gigrobò. 30 secondi, anzi facciamo un minuto per farci dire da Boris Sollazzo perché questo è un film davvero imperdibile, io lo credo fermamente, e poi andiamo ad ascoltare i due protagonisti principali, il regista e Claudio Santamaria, che veste i panni appunto di Enzo Ceccotti, nella nostra intervista esclusiva. Boris. Ecco, sì, un minuto perché lo merita. Allora, intanto perché, come raramente capita nei film italiani, tutti fanno bene il loro lavoro qua. Il regista, gli attori, il direttore della fotografia, il montaggio, è tutto perfetto. Persino la promozione, che da noi di solito è devastante, come dici tu, lo chiamavano Gigrobò, è atteso, perché hanno saputo raccontarlo bene, hanno saputo creare l'attesa, e l'attesa non verrà delusa. Secondo poi perché siamo in preda a un cinema che regolarmente ci dice cosa quel cinema stesso non può fare. Non è vero, il cinema italiano può tutto, può persino fare un film sui supereroi, e lo può fare davvero, non deve cercare una scorciatoia, lo fa a suo modo, lo fa con Enzo Ceccotti che cade nel Tevere, e chiunque vive a Roma sa che se cadi nel Tevere o muori o inevitabilmente hai i superpoteri. Lo puoi fare raccontando una certa italianità, una certa borgata, un certo disagio, raccontando che i super problemi possono essere quelli dei supereroi americani, ma anche quelli di Enzo Ceccotti. Lo fai perché Mainetti è un grande regista, e se volete scoprirlo prima di andare a vedere Lo chiamano Gigrobò, andate a cercare su internet Basette, che è un corto delizioso sull'immaginario di Arsenio Lupin. È necessario andarci perché Claudio Santamaria e Luca Marinelli sono degli attori straordinari. Di Claudio Santamaria lo sappiamo di più perché è più famoso. Luca Marinelli, se ascoltate La Rosa Purpurea da qualche anno, sapete che ogni volta che lo vedo passare io impazzisco, perché è davvero un attore straordinario, e qui è il villain che gli americani solo si sognano. Insomma, Lo chiamavano Gigrobò, al di là che se un giorno lo considereremo un capolavoro, prima parlavamo di Tiramisù come un film medio, ecco, questo è un film perfetto, è un film in cui tutti fanno quello che devono fare, è un film in cui il pubblico si diverte, si commuove, ed è un film che nel momento in cui esci capisci che ti ha dato molto più di quello che hai visto, ti ha dato qualcosa in più, elementi di riflessione, quindi è esattamente il film che ti fa voglia di andare al cinema, e se non ci vai spesso ti fa venire voglia di tornarci presto. Assolutamente, sposo totalmente quello che hai detto, Boris. Aggiungo il nome di Ilenia Pastorelli, appunto, la ragazza, l'Alessia del film, perché io l'ho trovata straordinaria, con una capacità proprio di muovere e di commuovere impressionante in questa sua finta boemite, chiamiamola così, no? Naivete, questa ragazza mezza pazza che però ha dentro una verità che è molto molto più grande di quella che dicono tutti gli altri protagonisti del film. E proprio di questo abbiamo parlato anche con Gabriele Mainetti, regista, e Claudio Santamaria, protagonista di Lo chiamavano Gigrobò. Sentiamo. Il film ha una, secondo me, succede un piccolo miracolo, cioè che ci sono 4-5 componenti stilistiche nettamente diverse, stilistiche, narrative, estetiche, eccetera, che però stanno perfettamente insieme. Allora, ti chiedo, quanto cercato e pensato prima di andare sul set, quanto trovato invece quando eravate lì a girare? Ma io un po' che comunque cerco di contaminare il linguaggio, nel senso che per me il cinema migliore ultimamente è quello che commistiona i generi, che commistiona i linguaggi, perché il cinema di genere puro fino a se stesso, che non rifletta neanche il contemporaneo, per me è sterile. Per me esistono bei film e brutti film. Questo devo dire che rispetto ai cortometraggi che ho realizzato in precedenza, che giocano un po' su queste componenti, non so se hai avuto modo di vedere di Basette o Tiger Boy. Tiger Boy è un cortometraggio, è stato shortlist agli Oscar nel 2012. Io già giocavo, no? tra sogno e realtà. Qui però la posta in gioco era molto più alta, perché c'erano i superpoteri davvero, c'è la commedia, c'è il dramma sociale, c'è la mala romana, una storia d'amore. E come fai a trovare un'armonia tra tutti questi elementi? Quella stilistica, vabbè, è un po' il compito del regista, ma poi quella narrativa è di trovare una strada semplicissima, che è il percorso che deve affrontare il protagonista, e in questo percorso ci sta la bella, che è un cardine che gli cambia completamente il percorso e lo fa andare nella direzione giusta, e il villain che concorre in qualche modo alla non realizzazione di questo progetto. Ed è molto semplice, è una storia di un'identità, un uomo che non vuole minimamente sapere degli altri, se ne frega totalmente, e lei invece gli fa da specchio e gli fa capire quanto in realtà l'altro abbia significato, ma questo può accadere soltanto nella relazione profonda tra entrambi, perché lui, accorgendosi di lei, si accorge anche degli altri. E poi il Marinelli, che invece vuole che tutti si accorgano di lui, è in qualche modo vittima di questa sua vetrinizzazione, che è un disturbo contemporaneo. Io sto lì a guardare quanti like mi mettono su Facebook, e quando ne ho raggiunti tanti vuol dire che sono qualcosa in più, e invece non è così, perché lui è completamente l'opposto, il personaggio di Santa Maria. La Bella, che vive in un mondo tutto suo nel quale i personaggi di Giglobo d'Acciaio sono veri, vede in te Hiroshi. Allora parliamo con Hiroshi finalmente. Cos'è stato per te Giglobo quando eri ragazzino e il personaggio di Hiroshi, che si faceva lanciare i componenti e diventava una testa? Beh, io lo guardavo ammirato quel cartone, mi piaceva molto. Era uno dei miei preferiti, se non il preferito, perché avevo proprio il robot di avevo proprio il pupazzo di Giglobo calamitato, qui si staccavano i componenti. E mi piaceva un sacco quella collanina che portava al collo, alla quale si illuminavano gli occhi e i guanti di Hiroshi. Poi non capivo, mi domandavo, ma la moto che cade giù nel dirupo, che fine fa? Che ogni volta ce l'ha uguale, quante ce n'ha di ste moto? E no, mi piaceva molto Giglobo. Appunto, poi c'è un parallelismo molto forte tra Hiroshi e Enzo Ceccotti, perché Hiroshi è uno che non gli va, non gliene frega niente all'inizio, no? C'ha questo compito, questo potere datogli dal padre, che c'ha una campana di bronzo nel cuore che lo rende fortissimo, invincibile, però non ne vuole sapere all'inizio, è così Enzo, no? Poi si convince però, no? Che possa servire a essere supereroe. Sì, ma più che altro è nella sua natura, cioè è un personaggio alla fine buono, è un criminale che comunque è rimasto uno scippatore, uno piccolo che non è mai fatto il salto nella vera criminalità, perché non è capace di uccidere probabilmente, quindi sotto sotto è buono, lui fa quello perché non sa fare altro. Quindi, come dire, vediamo un personaggio che è messo nelle condizioni peggiori per diventare un eroe, ed è proprio questo che rende avvincente la storia, secondo me, perché si assiste a una trasformazione che va proprio non da zero, da meno 100 a più 100. Secondo me, echi di Watchmen un pochino, io ci ho visto, poi dimmi tu se ti ci rivedi, e anche un po' di Birdman, perché c'è un personaggio a cui sta stretta la propria vita e che non trova però lo spiraglio per scappare, e vive con questa scimmia di questo supereroe attaccata alle spalle. Può essere? Beh, sì, anche con Batman o con altri personaggi, appunto, no? Questi supereroi che... Sì, quella scena finale, so. Sì, che si ritrovano in alto e... Invece Birdman ti era piaciuto? Quindi? Birdman sì, moltissimo, moltissimo. Hai parlato prima dei due, la Bella e il Villain, no? Mm-hmm. Che sono entrambi, a modo di vedere, straordinari, cioè azzeccati proprio nel casting. E io sono rimasto particolarmente colpito dalla Bella, beh, potendo scegliere, però dalla straordinaria bravura, espressività, intensità, capacità di commuovere, insomma, di questa attrice. Come sono avvenute queste due scelte, insomma? Ma la scelta di lei è stata soffertissima, perché io ho incontrato tutte le attrici dell'età del personaggio e non mi convinceva nessuna, e che me ne dicano gli agenti o le critiche, che ho preso una ragazza che non ha mai fatto l'attrice, ho lavorato in realtà nello stesso film, ci sono due attori eccezionali d'esperienza. Purtroppo non l'avevo incontrato, io la chiamo il mio elemento pasoliniano, però lei ha quel di più, secondo me, che comunque manca magari a quell'attore che tu trovi per strada, quote, virgolettato, ossia che è un'attrice, cioè lei ha quel talento di saper rendere tutto spontaneo, quel talento in più di trovare le sfumature, quello ancora in più di arrivare alle emozioni. E poi quello di fare anche un personaggio, perché lei non è mica una ragazzina incastrata nel corpo di una donna. Quindi abbiamo fatto un lavoro lungo di prove, però lei aveva quella realtà dentro che sentivo necessaria. Però con un candore meraviglioso, perché è una persona, veramente te lo dico, sembra, per citare Jovanotti, che non è uno dei miei cantanti preferiti, però è un fiore cresciuto sull'asfalto e sul cemento, e Serenata Rap spaccava. Marinelli invece è stata una scommessa, perché io l'ho scelto nel 2013, ho girato nel 2014 per tutta una serie di ritardi tipici che potrebbe avere un produttore semplice come me, e non aveva fatto Non essere cattivo, quindi non aveva quel côté sempre periferico, che ce lo siamo costruiti un po' insieme. Poi lui è un attore incredibile, quindi ha fatto tutto il resto, quindi gli inviavo tutta una serie di documentari che erano stati fatti sui carcerati di Re Bibbia, su Residence Bastoggi, la speranza che lui capisse veramente che cosa fosse quel mondo. E poi insieme abbiamo costruito questo personaggio meraviglioso, perché Marinelli, rispetto agli altri attori che venivano ai provini, mi ha portato le parti più sofisticate dello Zingaro, che sono quelle della sua fragilità e della sua simpatia, e non erano quelle di incutere terrore. Perché se tu come personaggio prendi e uccidi qualcuno, fai del male a qualcuno, quello già fa paura. Allora se io rafforzo quell'atto, enfatizzo quell'aspetto, diventa un po' banale e didascalico. Invece se io sorrido e sono dolce e poi dopo faccio la cosa peggiore, questa cosa ti spiazza completamente. E Luca aveva questa dicotomia meravigliosa che l'ha reso, secondo me, un villain molto molto molto originale. E allora lo chiamavano Gigrobò, senz'altro, insieme al club. Oggi veramente grande scelta. Andate al cinema sabato, domenica e magari anche durante la settimana, perché questi due film li dovete vedere. Poi dopo il resto lo potete vedere, ma questi sono veramente due film imperdibili. Giochiamo ancora insieme con il game di questa settimana. Questa è una domanda ufficiale. Città del Messico, che cosa ci faceva lì? È stata una coincidenza. Avevo delle ferie arretrate. E allora, chi è che parla? Chi è? L'avete riconosciuto? Abbiamo parlato prima terrorismo, spionaggio, eccetera. Diteci il titolo del film, il vostro indirizzo per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana, mentre fra poco, nella quarta parte, vi racconteremo chi ha vinto il game della settimana scorsa. Prima, viabilità. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta il 12 marzo, seguici in un mondo a 24 zampe. Rosita Celentano e Angelo Vaira ti aspettano a Milano per Chiedimi se sono felice live, un evento esclusivo dedicato agli animali e all'importanza della loro presenza in famiglia, con testimonianze di esperti e dimostrazioni di addestratori professionisti. Chiedimi se sono felice, live, sabato 12 marzo alle 15, Palazzina Appiani, Arena Civica di Milano. Corri a iscriverti su radio24.it. La Rosa Purpurea. Eccoci qua, Rosa Purpurea, quarta parte, fra poco, e tutti i film da vedere in casa. Prima però parliamo di Oscar, perché siamo veramente vicini. Questa è l'ultima puntata pre-Oscar della Rosa Purpurea, perché il 28 febbraio al Dolby Theatre di Hollywood ci sarà la cerimonia di assegnazione delle statuette 2016. Riuscirà finalmente Leonardo DiCaprio a vincere l'Oscar come miglior attore protagonista per la sua performance Irreverent di Alejandro González Iñárritu, o invece vincerà l'orso? No, scherzi a parte, ci sono dei competitor importanti: Michael Fassbender, che fa lo Steve Jobs di Danny Boyle, Bryan Cranston, che è dentro Dalton Trumbo, che abbiamo visto anche qua in Italia, Matt Damon, astronauta lasciato lì su Marte in sopravvissuto di Ridley Scott, lo stesso Eddie Redmayne in versione femminile transgender per The Danish Girl. Insomma, il cast e soprattutto i competitori sono importanti, ma non di solo attore protagonista si vive agli Oscar 2016. Dovremo stabilire il miglior film, la miglior attrice, tutte le categorie. Il Toto Oscar ce lo facciamo fare da un'amica di questa trasmissione, la collega Sara Sagrati. Ciao Sara. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, dacci i tuoi tre vincitori, diciamo Oscar, miglior film, miglior attore, miglior attrice. Non è mai stato difficile come quest'anno, devo dire la verità, per cui mi sbilancio. Per me purtroppo non vincerà Leo, ovviamente tifiamo tutti per lui, però è un tormentone troppo grande. Si guardano gli Oscar solo per vedere se vince Leo, e quindi lo terranno in bilico, secondo me, per molto tempo. Io ovviamente tifo per Michael Fassbender, che non solo è il mio attore preferito, ma anche il sogno della mia vita, l'uomo perfetto, eccetera eccetera, perché sono un bravo critico cinematografico, non mi faccio prendere dagli ormoni. Però devo dire che la performance di Eddie Redmayne è quella più Oscar in assoluto, proprio best Oscar ever. È vero che lo ha appena vinto per La teoria del tutto, sempre per un ruolo, diciamo, meno amato, tra virgolette, però forse lui tutto sommato ha il ruolo che permette più facilmente di vincere la statuetta. Come miglior attrice protagonista invece sembra che non ci saranno dubbi e sarà la giovane Brie Larson, poco conosciuta in Italia, anche se per chi ha visto Scott Pilgrim vs. The World la sua performance è talmente indimenticabile, tra l'altro un film che consiglio, è stato visto poco da noi. Brie Larson ha vinto tutto quello che c'era da vincere quest'anno per il suo ruolo in Room, è giovane, è bella, è simpaticissima, ancora sul tappeto rosso sembra quasi impacciata nonostante anni di esperienza, ed è davvero adorabile. Certo, se la deve vedere con la solita Jennifer Lawrence, che ormai è la fidanzatina sboccata d'America, però credo che insomma quest'anno non ci saranno dubbi. Difficile stabilire quale sarà il miglior film, perché quest'anno è una categoria che ha molto livellamento, sono film dove forse nessuno spicca, però non si può non dire che Revenant ha sicuramente più carte in regola che tutti gli altri. E allora, questo è il pronostico di Sara Sagrati. Grazie Sara, magari settimana prossima ci sentiamo per vedere come è andata a finire. Io devo dire che sono assolutamente d'accordo con te per quanto riguarda il ruolo di attore. Ho paura che Leo anche stavolta verrà, come dire, superato. Il mio favorito in questo caso sarebbe il Michael Fassbender dello Steve Jobs di Danny Boyle, perché trovo che non hai feromoni, pensa. Hai visto? E lì, perché trovo che lì ci sia proprio, mentre non sono d'accordo con te con Redmi, cioè sono d'accordo con te che è il film più oscarizzabile, però sono un po' stanco di queste cose fatte apposta per vincere gli Oscar, non so come dire, lo dico così in soldoni, ma insomma il senso è quello. E invece la performance è anche molto molto sì, giusto, poi lui mi dà un po' fastidio ogni tanto. Però detto questo, invece trovo che la mimesi con la quale diventa Steve Jobs sia stata straordinaria, e c'ha il film tutto sulle sue spalle, perché ricordiamoci che quel film sono tre discorsi di Steve Jobs totalmente sulle spalle di Fassbender, quindi davvero lì c'è una prova d'attore che non è quella solo contro tutti di Revenant, non è quella guarda come sono bravo a fare queste parti qua di Redman, ed è invece il cinema, e quindi secondo me lì dovrebbe andare, ma forse lì non andrà, no. Chi lo sa. E ai milanesi, se volete prepararvi alla notte degli Oscar, domenica sera a Teatro Parenti vediamo i corti, che nessuno vede mai i corti, c'è una bella proiezione di tutti i corti nominati. Sabato sera a Teatro Parenti, da che ora? Corti da Oscar, dalle 8:30. Dalle 8:30? Che continuerà per tre ore circa, solo corti, ci divertiamo con quelli animati e quelli live action. Beh, fantastico, allora appuntamento al Parenti per chi può arrivare su Milano domenica sera dalle 21. Grazie Sara Sagrati. Grazie a voi. E allora, questo è l'appuntamento con gli Oscar, siamo arrivati al momento di risolvere il game della scorsa settimana. Sentiamo con quali clip avevamo giocato. Compriamo l'Inter. Ho sentito che il filippino sta già per vendere. Cioè, vi rendete conto che compriamo a niente una delle squadre più forti del mondo? Basta, adesso deve riposare. È uno dei momenti di Belli di Papà, il film con cui abbiamo giocato la scorsa settimana e che vincono i nostri ascoltatori Francesco Lomascolo di Fasano, provincia di Brindisi, e Salvatore Lofino di Trieste, che hanno indovinato per primi il titolo di questo film con Diego Abbatantuono, che ci facciamo raccontare come sempre da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Sì, parliamo di Belli di Papà, storia di un industriale interpretato da Diego Abbatantuono, che si finge ricercato per bancarotta fraudolenta, sperando di insegnare ai suoi viziatissimi figli a camminare con le proprie gambe, costringendoli a rifugiarsi in Puglia, in una catapecchia, con pochi spiccioli e un lavoro da inventarsi. È una commedia di conflitto generazionale, un rifacimento e un adattamento di un film messicano che si chiamava Nosotros los Nobles, ed è sorretto soprattutto dall'interpretazione di Diego Abbatantuono. Un film ora disponibile in una scarna edizione DVD con backstage, scene tagliate e papere. Questo è il game della scorsa settimana. Giulio, diamo un'occhiata ai palinsesti invece della prossima per pescare due film da consigliare ai nostri ascoltatori. Prima di tutto, domenica 28, Mezzanotte nel giardino del bene e del male di Clint Eastwood su Iris alle 15:25. Siamo nella savana in Georgia, un giornalista resta affascinato da un caso d'omicidio e dai suoi intrighi nascosti, ma il rischio è quello di farsi inghiottire da un'America sudista, decadente, strafottente, appiccicaticcia. Siamo lontani veramente dalle solite traiettorie di Clint Eastwood, il regista del film, che qui guarda con un occhio preciso da antropologo e si abbandona ad inquietanti atmosfere fantastiche. A mio avviso uno dei suoi migliori film, tra l'altro. Altro appuntamento il giorno dopo, lunedì 29 febbraio, Amores Perros, il film di esordio di Iñárritu. Abbiamo parlato poco fa di Revenant che concorre agli Oscar. Ebbene, proprio lunedì 29 potrete vedere Amores Perros su Rai Movie alle 23.05. Sì, parliamo dell'esordio folgorante al tempo di Alejandro González Iñárritu, che è probabilmente destinato a vincere lunedì il suo secondo Oscar di fila, dopo Birdman, ora The Revenant, Re di Vivo. Qui con il fido Arriaga la sceneggiatura lega al solito virtuosisticamente i fili di un cinema locale in Messico, ma comunque globale, dove tutto è collegato e ha incidenza sul resto, sull'intorno, raccontando storie di uomini e cani e di scontri di classe in un Messico eticamente miserabile. Grazie Giulio San Giorgio e agli amici di Film TV, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, grazie, alla prossima. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, allora appuntamento a sabato prossimo qui, ma seguite tutta la settimana del cinema, gli Oscar e non solo, su Radio 24, durante gli appuntamenti quotidiani. Noi ci sentiamo alle 18 con tutto il cinema che c'è sabato prossimo alla Rosa Purpurea.